GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aspettando Papa Francesco, a Trieste fervono gli ultimi preparativi. Il pontefice arriverà domani alle 8, incontrerà i congressisti della settimana dei cattolici e i rappresentanti delle comunità religiose. Poi, in Piazza Unità, celebrerà la messa e reciterà l'Angelus. È superiore all'importo medio nazionale quello dell'IRPEF che viene versato dai contribuenti di Trieste, a fronte di un importo di 5.800 euro. Gorizia, fanalino di coda in regione, con 4.600 euro. Al via i saldi anche in regione, primo bilancio della mattinata più che positivo a Trieste, tanti anche i turisti che hanno approfittato degli sconti. A Udine notte bianca con la protesta dei commercianti. Troppo poco tempo per organizzarsi, nessun armatore ha partecipato al bando regionale per il trasporto pubblico via mare per raggiungere da Trieste il litorale sloveno e croato. Grandi classici del teatro, ma non solo, nella nuova stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, presentata poco fa. Sul palco anche uno dei maestri più acclamati della scena internazionale, Sir Antonio Pappano. Dedicata a Giulio Regeni, la 28ª edizione del Festival Onde Mediterranee al via il 18 luglio, si parlerà di guerre, migrazioni, salute mentale. Per la musica, spazio a Colapesce di Martino e Fulminacci. Ancora una buona giornata da Maria Spezia e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Dunque, il Papa domani sarà a Trieste a conclusione della settimana sociale dei cattolici in Italia. L'elicottero papale decollerà dall'eliporto Vaticano alle 6:30, l'arrivo è previsto alle 8. Bergoglio sarà accolto dal presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, da Monsignor Luigi Renna, presidente del comitato che organizza le settimane sociali, dal vescovo di Trieste Enrico Trevisi e dalle locali autorità civili. Papa Francesco parlerà davanti ai congressisti che per una settimana hanno dialogato sui temi legati alla democrazia, quindi incontrerà privatamente i rappresentanti delle diverse comunità religiose di Trieste, una cinquantina tra accademici e studenti dell'Ateneo. Il pontefice incontrerà anche un gruppo composto da persone con disabilità e da migranti. Il Papa celebrerà quindi la messa in Piazza Unità e reciterà l'Angelus. E passiamo ora al dietro le quinte della messa di domani in Piazza Unità, 24 ore dall'evento. 8.500 le sedie posizionate che arrivano fino al mare, 9.000 le particole pronte, vesti e arredi liturgici prestati dalle parrocchie. Per chi domani non potrà essere a Trieste, Rai 1 trasmetterà la visita del Papa in diretta dalle 8.20. La sala matrimoni del comune di Trieste è trasformata in sagrestia vescovile. Entriamo in anteprima a 24 ore dalla celebrazione della messa in Piazza Unità da parte di Papa Francesco e tutto è pronto. Un centinaio di casule, 100 pissi di portaparticole. Vediamo in anteprima anche i calici da cui berranno Papa Francesco e il cardinale Zuppi, presidente della CEI. Tutto materiale prestato dalle parrocchie. Siamo con Don Davide Kersicla, maestro delle celebrazioni vescovili che da febbraio lavora a stretto contatto con l'Ufficio Liturgico Nazionale della CEI. Materiale prestato dalle parrocchie vicine, è importante, è un messaggio questo? Beh, se il tema della settimana sociale di quest'anno è la partecipazione, penso che sia proprio un'occasione bella per dire che tutte le parrocchie hanno partecipato in qualche maniera, o con il coro, o con gli arredi liturgici, o con i vari servizi che possono essere i lettori, gli offerenti, gli intenzionisti, a partecipare a questa celebrazione. E anche i detenuti sono stati coinvolti, in che modo? Sì, attraverso un'associazione, l'associazione DOC, che si è messa in contatto con me e così, visto che il Papa ha sempre questa attenzione verso i detenuti, abbiamo pensato di coinvolgerli attraverso questi laboratori che loro hanno all'interno della casa circondariale, laboratori artistici per i quali hanno prodotto il mosaico dell'altare e dell'ambone e queste 100 portaparticole, appunto queste pissidi in materiale resinoso e legno. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono i triestini in Friuli Venezia Giulia quelli che versano più denaro per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, al netto di addizionali regionali e comunali e a fronte di un reddito medio locale di 26.000 euro. Il prelievo IRPEF dei giuliani è infatti di 5.800 euro pro capite. I rilevamenti datati al 2022 chiariscono come l'importo pagato da chi vive nel capoluogo regionale superi di circa il 10% la media nazionale, vicinissima ai 5.400 1.400 euro e anche a quella regionale, calcolata in 5.260 euro. I dati arrivano dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGA di Mestre, che ha elaborato la classifica a partire dalle rilevazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le tabelle emerse evidenziano come i 182.000 contribuenti giuliani siano elencati alla 79esima posizione in Italia per numero di persone soggette alla tassazione. Udine, invece, si è guadagnata la 30esima posizione a livello nazionale, con i suoi 411.000 contribuenti dal reddito medio di 24.300 euro, che pagano in media 5.200 euro per l'IRPEF. In graduatoria segue Pordenone, 63esima in Italia, con 240.000 contribuenti, a fronte di introiti medi di 24.600 euro, che pagano 5.100 euro per l'IRPEF. Fanalino di coda regionale Gorizia, centesima a livello nazionale, con 110.000 contribuenti che dichiarano in media 23.000 euro l'anno e il cui prelievo medio si è fermato a 4.650 euro. 12.36, passiamo al meteo. Il cielo è sereno su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 25 gradi e mezzo, il mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi. A Gorizia 28, a Pordenone 26 gradi e mezzo, a Udine 26. In Aramontana, Tolmezzo 23 gradi e 5 decimi, Tarvisio 21 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 20 gradi e mezzo, Sappada 18, Piancavallo 16 gradi e 5 decimi. In quota su Monte Zoncolan 13 gradi, sulla costa Lignano 28, a Grado 26 gradi e 5 decimi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 25 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA regionale: nelle prossime ore su pianura e costa avremo cielo sereno poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile al pomeriggio, in serata su Alpi e Prealpi Carniche non escluso qualche rovescio temporale, soffierà brezza sostenuta. Passiamo alla cronaca. Un escursionista di 29 anni di Maniago è deceduto per le gravissime ferite riportate in una caduta avvenuta sotto il Cimon di Palantina, nei pressi di Forcella Colombera, attorno ai 2000 metri in territorio di Tambre, in provincia di Belluno. L'allarme era scattato la notte scorsa da parte dei familiari per il mancato rientro del giovane. Tra la mezzanotte e le 4:30 di mattina, le stazioni del soccorso alpino di Pordenone, Maniago e dell'Alpago hanno cercato l'escursionista friulano, dato che la sua auto era stata ritrovata in Piancavallo e aveva annunciato di voler seguire un itinerario a cavallo tra le due regioni. A quel punto i soccorritori si sono messi contemporaneamente dal versante friulano e da quello veneto in moto, finché il corpo senza vita è stato ritrovato, perché era in un dirupo. Nei giorni scorsi, dopo lunghe indagini, sono stati arrestati a Napoli due autori di una truffa messa a segno a Trieste. I fatti risalgono al 2 gennaio scorso, quando un'anziana signora di 90 anni riceveva una telefonata da un sedicente avvocato che le chiedeva del denaro per il rilascio del figlio che si trovava agli arresti a seguito di un incidente stradale da lui provocato. La donna, preoccupata dalle sorti del congiunto, raccoglieva quanto aveva in casa tra contanti, monili e preziosi, raggiungendo anche una ragguardevole cifra, 80.000 euro, che consegnava ad un emissario del sedicente avvocato, che nel frattempo aveva raggiunto la sua abitazione. Mentre questi prelevava la somma, un complice rimaneva in strada a fare da palo. Le indagini, dirette dal sostituto procuratore Baldovin, hanno preso le mosse dalla visione delle telecamere di sorveglianza della zona e dall'analisi dei tabulati telefonici, che hanno consentito di individuare i due autori. E come da previsione, il traffico è ora in aumento sull'autostrada A4. Si segnalano in questo momento code al casello dell'Isert in direzione Trieste, oltre ad incolonnamenti sempre in direzione Trieste all'altezza dello svincolo tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23. Altri rallentamenti si registrano poi sulla A23 in direzione di Palmanova, nel tratto compreso tra Udine Sud e il bivio con la A4. Infine, un'ultima criticità, quella registrata sulla 4 in corrispondenza di Latisana, con code in entrata e in uscita dal casello. La politica: saranno solo due i deputati del Friuli Venezia Giulia nella legislatura del Parlamento europeo, che inizia il 16 luglio a Bruxelles. Forza Italia ha infatti confermato, come ampiamente previsto, che il seggio che spetta al partito per la circoscrizione del Nord-Est sarà occupato da Flavio Tosi, che ha optato per l'Europarlamento e che lascerà dunque la Camera dei Deputati. Rimane a Roma, in qualità di sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savini, Marino, la coordinatrice regionale degli Azzurri, che sarebbe andata a Bruxelles in caso di rinuncia di Tosi. La decisione è stata comunicata dal segretario nazionale Antonio Tajani a margine di un incontro a Milano. Gli eurodeputati regionali, come noto, saranno Alessandro Ciriani per Fratelli d'Italia e Anna Maria Cisint per la Lega. Come nel resto d'Italia, anche in Friuli Venezia Giulia oggi è il primo giorno ufficiale di saldi estivi previsti in calendario per 60 giorni. A Trieste, per l'occasione, oggi i negozi potranno essere aperti fino alle 22 e non sono state previste ulteriori restrizioni al traffico a fronte di quelle già in vigore per il calendario della settimana sociale dei cattolici. Ma sentiamo com'è andata la mattinata. C'è tempo fino a tarda sera a Trieste per approfittare dei primi saldi. I negozi aperti fino alle 22 per la notte bianca, ma sono già in tanti per l'alba dei saldi. Approfittiamo di dormiglioni e noi intanto dobbiamo fare le compere. Sono partiti in bomba, secondo me, come ogni anno. Alla fine, una volta i saldi partivano col 20%, adesso guardavo questa vetrina, meno 70%. E c'è da fidarsi? Secondo me i prezzi sono sempre rincarati molto e quindi poi nei saldi escono i prezzi reali delle cose. Le famiglie italiane quest'anno spenderanno in media 202 euro, 92 pro capite. Alcuni sono disposti a spendere di più. Quanto pensa di spendere? Ma non lo so, dipende da quello che trovo. Penso 100, 150, non di più. Non so, 400, 500, non so. L'inizio della stagione dei saldi coincide anche con il bel tempo. Il meteo ballerino dello scorso mese non ha aiutato i commercianti. Elena Pellaschier, vicepresidente di Confcommercio Trieste. C'è un assortimento molto vasto, ma anche nei negozi di vicinato i nostri clienti possono venire a trovare delle occasioni, verranno assistiti con professionalità da noi commercianti. Gettonatissimo l'abbigliamento estivo. Alcuni turisti sono soddisfatti. Also picked up my glasses today here. Ho acquistato questi occhiali oggi qua a Trieste. E quanto hai speso? 200 euro, I think. Penso 200 euro. È un prezzo giusto? Sì, è perfetto. Per altri i prezzi sono troppo alti. Non pensavamo di fare acquisti. I prezzi sono alle stelle. La concorrenza con il mondo degli acquisti online è sempre forte, ma c'è chi non rinuncia agli acquisti fisici, tra questi anche i giovani. Esatto, preferisco sempre comprare nelle filiali reali, nel mondo reale. Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia. Saldi e notte bianca con polemiche a Udine. Notte bianca a iniziativa del comune con la protesta dei commercianti a Udine. L'ormai tradizionale evento per il lancio dei saldi estivi che quest'anno, su richiesta dei commercianti, il comune aveva deciso di raddoppiare con un ricco calendario di iniziative nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 luglio ha visto andare in scena la protesta degli esercenti contrari all'ordinanza anti-alcol che limita gli orari di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche in città. Ha però ridimensionato il programma, ma sembra che uno spiraglio si stia aprendo. Giovanni Pigani, responsabile dei pubblici esercenti aderenti a Confcommercio. Siamo parlati in questi giorni in via informale, ma praticamente tutti i giorni, per risolvere questo problema. Chiaramente, fino a che non sarà risolto, noi rimarremo sulle nostre posizioni. Ci sono delle trattative in corso, perché le idee ce le siamo dette, ci sono dei punti d'incontro e speriamo che vengano poi anche diciamo, messi in campo, magari in una modifica dell'ordinanza. Il braccio di ferro tra le categorie e il comune non è ancora rientrato e tutti guardano con attenzione alla convocazione di lunedì in prefettura. Alessandro Venanzi, assessore attività produttive, comune di Udine. È un tavolo permanente con le categorie economiche tutte, nelle quali si prendono le decisioni più importanti che riguardano la città in maniera collegiale. Ci troveremo a breve, credo lunedì, anche per ragionare in maniera più ampia su quelle che sono, come dire, le opportunità che possiamo cogliere assieme e anche creare assieme delle regole comuni di civile convivenza. Lunedì, giornata importante tra convocazione del prefetto, consiglio comunale straordinario sulla sicurezza e la marcia silenziosa promossa dal comitato Udine Sicura per ricordare Tominaga e chiedere interventi più efficaci per garantire la sicurezza in città. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora del trasporto pubblico via mare per raggiungere il litorale sloveno e croato partendo da Trieste. Nessun armatore ha partecipato al bando regionale perché il bando di quest'anno è stato contraddistinto da tempistiche e disposizioni che non avrebbero permesso di assicurare un servizio adeguato. Così almeno ci ha spiegato la compagnia che ha vinto l'appalto l'anno scorso. Gli oltre 320 passeggeri che viaggiavano di media quotidianamente sugli aliscafi del trasporto pubblico marittimo internazionale ora devono viaggiare su strada, contribuendo a formare le inevitabili code dovute anche ai controlli di sicurezza. Per il collegamento marittimo Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo nessun armatore ha risposto al bando regionale quest'anno. Perché? Mancano forse aliscafi? Il direttore commerciale di Liberty Lines, Nunzio Formica. I mezzi veloci ci sono, noi ne abbiamo 30. Chiaramente la nostra programmazione operativa, a un certo punto abbiamo perso le speranze sulla linea di Trieste, cioè immaginavamo che la gara, che quest'anno la linea non si facesse perché la regione non aveva disponibilità dei fondi. Soltanto a fine marzo abbiamo scoperto invece che c'era la volontà di fare la gara e siamo stati convocati in regione alla fine di marzo. Siamo andati, abbiamo incontrato sia l'assessore che i dirigenti, tutte persone molto competenti e soprattutto che mostravano grande volontà e grande entusiasmo per lo svolgimento della linea anche nella stagione 2024, ma abbiamo rappresentato che secondo noi, come dire, i nostri programmi non coincidevano con quanto la regione stava programmando. Era ormai tardi, per cui avevamo preso impegni anche per fare altri servizi ed altre linee, però ci eravamo riservati, insomma, di vedere se il bando uscisse in tempi ragionevoli, di verificare se c'erano le condizioni per poterlo fare. Chiaramente poi questo non è stato possibile perché 9 giugno era una data effettivamente per noi troppo tardi. Probabilmente anche altri armatori come noi hanno fatto lo stesso ragionamento. Non vedo altre motivazioni. Il servizio di trasporto sarebbe dovuto partire il 29 giugno, ma in questo modo il vincitore del bando avrebbe avuto solo 20 giorni di tempo per organizzarsi. Ma gli adempimenti burocratici sono molti. Solo ad esempio per avere l'ok al piano di sicurezza possono volerci 30 giorni. Ecco allora l'appello alla regione ad anticipare le date. Abbiamo chiesto loro se sono intenzionati, insomma, a proseguire nel futuro, a lavorare allacremente per fare in modo che la gara esca in autunno, poi vinca il migliore. Chi se la giudica avrà modo di fare tutto quello che bisogna fare per tempo. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Su Rai 1 questo pomeriggio Linea Blu alla scoperta del Golfo di Trieste. Alle 14 il programma condotto da Donatella Bianchi partirà dal Castello di Miramare, icona di Trieste e del suo territorio, ma anche luogo simbolo dell'incontro tra la Mitteleuropa degli Asburgo e il Mediterraneo. Poi con i ricercatori dell'area marina protetta di Miramare verranno seguite alcune fasi del progetto europeo Life Pinna, che si prefigge di salvare dall'estinzione la Pinna nobilis. Ma si parlerà ancora di Trieste come capitale italiana degli sport acquatici dalla vela, rievocando le edizioni più belle della Barcolana. La pagina della cultura ha presentato poco fa la nuova stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, spazio ai grandi classici ma anche a registi come Emma Dante. Ritorna Roberto Bolle, sul palco anche il direttore d'orchestra Antonio Pappano. Un teatro di tutti e per tutti, è così che intende presentarsi il Teatro Giovanni da Udine con la sua 28esima stagione che aprirà il 12 ottobre. 56 appuntamenti dalla prosa fino al balletto, cui si aggiungono laboratori, visite guidate e incontri con i protagonisti in scena. Il presidente della Fondazione Teatro Nuovo, Paolo Vidali. È una stagione ricca di titoli, molto ricca appunto di presenze importanti, ma nello stesso tempo è anche una stagione che cerca appunto di incontrare i gusti di pubblici diversi. Si comincia con la musica, con il concerto dell'orchestra Cherubini diretta da Charles Dutoit il 12 ottobre, ma sul palco di Udine verrà anche Sir Antonio Pappano, ci sarà un focus su Luciano Berio e tutti i 6 concerti brandeburghesi di Bach. Da segnalare anche il progetto Play Lab, 4 mini concerti per bambini appena nati da 0 a 36 mesi. Il direttore artistico per la stagione di musica, Paolo Casciu. Saranno in teatro, verrà creato uno spazio apposito dove genitori, famiglie, bambini potranno sedersi per terra opportunamente accomodati e dei performer, musicisti, professionisti sulla musica per i bambini intratterranno e coinvolgeranno. Per la prosa pronti 22 spettacoli, si parte con I ragazzi irresistibili con Franco Branceroli e Umberto Orsini dal 22 ottobre e poi spazio per i classici da Goldoni a Pirandello ma anche Edoardo De Filippo e Eugenio Nile, quest'ultimo con Gabriele Lavia e Federica Di Martino, e per la contemporaneità Il re Chicchinella di Emma Dante e Il ministero della solitudine della Casa di Argilla, ma anche Marco Paolini su Darwin, Neri Marco Re su De André, mentre l'universo femminile è approfondito da Angela Finocchiaro e Ambra Angiolini. Infine per la danza c'è il ritorno della star internazionale Roberto Bolle con il suo Roberto Bolle in France il 16 e 17 novembre e lo Schiaccianoci di Tchaikovsky a gennaio, mentre per l'opera spiccano Verdi con la Traviata e il Rigoletto nell'allestimento del Verdi di Trieste e Puccini, con un concerto dedicato ai suoi brani in programma a febbraio, per l'operetta in primavera Il pipistrello di Strauss e per chiudere un gala Disney per i bambini. Udine, Dario Ronzoni, DGR Friuli Venezia Giulia. Dedicata a Giulio Regeni, la 28ª edizione del Festival Onde Mediterranee al via il 18 luglio. Si parlerà di guerre, di migrazioni, di salute mentale. Per la musica, spazio a Colapesce di Martino e a Fulminacci, ma sentiamo Giancarlo Vellischig, direttore artistico della manifestazione. Sarà un'edizione, come sempre, ricca di vari appuntamenti, varie tipologie di eventi musicali principalmente, ma non solo. E difatti la prima parte del festival vive della sezione che si chiama Lettere Mediterranee e che dà occasione, appunto, dal 18 fino all'ultimo giorno, fino al 28 praticamente, di incontrare scrittori, autori, filosofi, scienziati, e a parlare e a argomentare su vari temi che sono legati al territorio e al concetto complessivo del festival. Parliamo di migrazione, parliamo di salute mentale per il centenario di Basaglia, parleremo anche di vita nelle carceri, parleremo di società futura, di energia possibile e di clima, e con vari veramente importanti personaggi. La parte musicale invece si così porta alla conclusione negli ultimi giorni del festival. Dal 25 al 28 saremo nell'arena del castello di Gradisca con quattro serate musicali con artisti come Motta, con la Pesce di Martino, e poi finiremo con Fulminacci il sabato 27 e poi l'ultimo giorno, come sempre da diversi anni, il festival si chiude con una giornata intera dedicata a Giulio Regeni, a cui tutto il festival, appunto, è dedicato, e come sempre l'ultimo giorno sarà una serie di appuntamenti anche lì, di incontri con la famiglia, con l'avvocato, facendo il punto di com'è la situazione anche adesso del processo, e poi con una festa comunque musicale finale con la FVG Ska Jazz Orchestra, così come è giusto fare per chiudere il festival. Annunciati i quattro finalisti del concorso Piccolo Violino Magico, selezionati tra i migliori 20 candidati sotto i 13 anni che sono arrivati a San Vito al Tagliamento per contendersi i premi dell'ottava edizione. Si tratta infatti di uno dei più ambiti e prestigiosi concorsi internazionali per giovanissimi talenti dell'Archetto, eccellenza del Friuli Venezia Giulia, ormai conosciuto in tutto il mondo. Quest'anno i giovani arrivano, oltre che dall'Italia, da Cina, Germania, Corea, Singapore, Taiwan, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Francia, Giappone, Nuova Zelanda, Ucraina, Svizzera e Bosnia e Erzegovina. I finalisti di questa edizione sono Li Yunduo dalla Cina, Pacebut Margarita dall'Ucraina, Liu Yunshuk dalla Corea del Sud e Tao Bae dalla Cina. La serata finale domani, domenica alle 16:30, all'Auditorium Comunale, che decreterà il vincitore o la vincitrice e i destinatari degli altri premi. Sono decine i ragazzi che stanno partecipando agli Open Days del nuovo Pordenone Calcio, che dopo il fallimento riparte dal settore giovanile. Il calcio a tinte nero-verdi ricomincia dai più piccoli. A un anno dalla rinuncia all'iscrizione alla Serie C e dal successivo fallimento del Pordenone Calcio, la nuova società Pordenone Football Club, fresca di affiliazione alla Federazione Gioco Calcio, ha aperto le sue porte a bambini e ragazzi della città e del territorio. Quattro giorni di Open Day al Centro Sportivo San Lorenzo per le categorie dai pulcini agli allievi, per trovare i ramarri del futuro, continuando la tradizione di un settore giovanile da sempre serbatoio di talenti per la prima squadra. Mirko Stefani, direttore settore giovanile Pordenone Football Club. Gli Open Day ci permettono di farci conoscere e noi abbiamo la possibilità di vedere questi ragazzi che hanno il piacere di presentarsi. Sono belle occasioni perché sono un paio d'ore di divertimento. Un nuovo inizio apprezzato anche dai genitori tifosi dopo 12 mesi difficili. Un'occasione per far rivivere i colori nero-verdi che ci sono mancati per un anno, e quindi oggi diciamo che è una giornata di festa, di prova, è un ricominciare. Forza Pordenone, forza ai nostri bambini e anche noi mamme, papà, siamo qua per aiutarli e sostenerli. E per i piccoli in campo un appuntamento in cui prima ancora della valutazione delle potenzialità di ciascuno viene il divertimento e il rispetto per gli altri. Matteo Odorico, responsabile attività di base Pordenone Football Club. In campo non si è mai da soli e quindi credo che proprio l'etica sia uno dei principi da rispettare sempre. Se manca quello, probabilmente anche se ci sono gli altri, non so se un giocatore è pronto. Pordenone, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le rubriche della TGR domani dopo il giornale radio delle 8.30, come di consueto, andrà in onda la nostra rubrica Vita nei Campi. Sentiamone un'anticipazione. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura un progetto quadriennale di AgriFood del Friuli Venezia Giulia sulla valorizzazione dei sottoprodotti dell'agricoltura. A seguire la storia di Angelo Floramo che racconta dello stupore e della magia delle lucciole nei campi d'estate. Anche in Friuli Venezia Giulia in questi anni di cambiamento climatico si può far crescere la pianta del tè. E ancora birra artigianale o birra agricola, due versioni di un successo crescente. Cosa si deve sapere per fare un'ottima e sana marmellata casalinga? Platicodum grandiflorum, la campanula cinese nella rubrica dei fiori. In conclusione, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E per questa edizione è tutto. In redazione ha collaborato Laura Sarasini per la parte tecnica, in regia Roberto Cavallari e Bruno Montevecchi. Da parte di Maria Spezia ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.